oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno a tutti. Ops, come sono alta, non nel senso di altezza fisica, ma di volume. Buongiorno Francesco, intanto. Buongiorno. E buongiorno Willy, bentornato. Ben ritrovati a voi. Ecco. Non ci piace ecco. Quando ci lasci da soli, te lo dico. Mi dispiace, vedrò di essere più presente. Ecco, sarà meglio. Intanto spiegatemi le novità. Allora, le novità sono che la settimana scorsa, tra le varie chiacchiere che abbiamo fatto con Francesco, è stata lanciata una sfida molto concreta che speriamo che qualche nostro ascoltatore o nostra ascoltatrice abbia raccolto, ovvero rimanere pazienti e comprensivi per 5 minuti di fronte a qualcuno che ti investe con la propria rabbia o frustrazione per vedere l'effetto che fa, come diceva la nota canzone Vengo Anch'io. Questa era la sfida e noi avevamo chiesto ai nostri 5 minuti al giorno. Noi avevamo chiesto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di provarci e di raccontarci poi che cosa era successo, che effetto aveva avuto su di loro e sulla persona che li aveva eventualmente aggrediti. Ma io farei una mini sintesi del perché avevamo lanciato questa sfida, Francesco. Sì, molto semplicemente eravamo partiti dalla reazione molto comune alle situazioni di crisi, così eccetera, che è l'aggressività. E ci siamo detti che la reazione più comune è appunto la rabbia, e che la rabbia generale, la somma di tutte le rabbie che ci sono in una città e che determinano l'atmosfera, è spessissimo il risultato di tutte le arrabbiature che ciascuno si prende tutte le volte che incontra un ostacolo, una situazione critica. E allora eravamo arrivati a considerare che talvolta quando una persona ha qualcosa, reagisce con una rabbia o con un'aggressività, se a noi ci sembra, per esempio, che spesso non abbiamo fatto niente, ci sembra che spesso sia immotivata nei nostri confronti la rabbia, cioè che la gente è già arrabbiata e in qualche modo, appena noi ci rivolgiamo a loro, esprime la sua rabbia. E abbiamo detto che una cosa utile e importante sarebbe sfogarla, questa rabbia, no? Solo che se tutti la sfogano, la rabbia generale aumenta. Allora dicevamo che forse una cosa importante per superare tutto questo meccanismo è quello di considerare che quando una persona si arrabbia con noi senza che gli abbiamo fatto niente, è perché ci sta chiedendo aiuto. E allora in questo caso la reazione giusta è di cercare di contare fino a 100, sopportare e fare 5 minuti di sopportazione. Con il risultato probabile che la rabbia generale diminuisce e l'atmosfera cambia. Quindi per questo faccio una precisazione magari inutile, però la facciamo. Ovviamente stiamo parlando di sfogare la rabbia in senso verbale, magari con un tono di voce particolarmente acceso. Non stiamo parlando di ovviamente accogliere una rabbia che si scatena con particolare violenza, magari fisica o cose di questo tipo. Stiamo ragionando in un ambito. Sì, è una giusta precisazione. Esatto. È una giusta precisazione, però la maggior parte della rabbia sì. È una rabbia che non è una rabbia violenta in senso fisico, spesso sono insulti, è verbale, sono dita che si alzano in un certo modo, ombrelli, cose sgradevoli che le persone ci dicono, ma soprattutto insulti, soprattutto il fatto che appunto veniamo aggrediti. Ma non fisicamente, nella maggior parte dei casi non è questo il problema. Ecco. E quindi avevamo chiesto ai nostri ascoltatori di provare questo esperimento e raccontateci al 333 180 94 94 con i vostri sms o whatsapp, oppure in diretta con la vostra viva voce allo 051 34 64 58 com'è andata, cosa è successo. Io posso partire da un esempio mio, se vuoi. Parti. Rompo il ghiaccio, come si dice. Poi io voglio sentire anche Willy se ha provato a fare l'esperimento. Sì, perché pochi minuti fa. Lui non c'era in trasmissione, però ha letto su Facebook l'appello che è stato messo sia sulla pagina della radio che sulla pagina di Amici di Rivivere e anche sulle nostre pagine personali è girata questa cosa. Un episodio, sono al cinema... E il mio vicino, un personaggio, un signore, un po' anzianotto, che continua a parlottare, a commentare il film con la sua signora. A un certo punto io ho aspettato per un bel po' di tempo che smettesse. Poi a un certo punto gli ho detto molto gentilmente, molto garbatamente, gli sarei saltata addosso, devo dire la verità, mi scusi, per cortesia può non parlare durante il film. E questo signore si è girato verso di me e mi ha aggredita come se mi volesse uccidere per questa precisazione. Io non ho detto nulla, lui ha finito le sue invettive e poi si è fermato. Io non, l'unica cosa che ho detto, no ma non c'è problema, gliel'ho solo detto, ho reagito così e basta. Che dire, si sarà sfogato, si sarà calmato, però dopo è stato zitto, devo dire, forse ha sfogato tutte le parole con me, chissà. Sì, ha funzionato perfettamente, no? Ti ha lasciato parlare, poi ti ha insultato, cioè non ha accettato la sollecitazione, dopodiché tu il fatto che con tu il ditino alzato, certo, sì. Ma la cosa importante è che tu non hai reagito, no. Perché tu avresti a tua volta potuto insultarlo, no, se non passavamo. Mi sono resa conto che se io avessi reagito a mia volta in maniera aggressiva nei suoi confronti avremmo passato tutto il film a insultarci, così almeno mi sono riuscita a godere tutto il resto che rimaneva, insomma. Certo, quindi tu le tue 5 minuti li hai... Mi sono serviti per vedermi un pezzo di film in silenzio. Esatto, sì, esatto. Sì, ecco, diciamo mi che il mio risultato è stato mi questo. Mi sembra un esempio, come dire, riuscito. Devo dirti che però io 5 minuti al giorno non ci sono riuscita. E ti spiego perché. Spiegami perché. Perché non ho ricevuto tutti i giorni delle aggressioni, quindi c'erano dei giorni che non avevo bisogno di farlo perché non c'era una situazione che mi permettesse di provare l'esperimento. Beh, allora questo è un caso fortunato che ci consente di dire che proporsi di sopportare 5 minuti al giorno gli insulti degli altri può farci scoprire che poi non è così vero che ci insultano così frequentemente. Ecco, questa è carina, devo dire. Te la sapevi questa? No, no. Di la verità. No, l'ho scoperto adesso. Ah, ok. No, pensavo che fosse obiettivo subliminale che volevi farci raggiungere. No, no, no, sei tu che me l'hai suggerito. Io in certi giorni sarà che sono stata in ambiti protetti di persone che conoscevo. No, perché ci lamentiamo, certe volte ci lamentiamo troppo. Dici, sai, ti insultano sempre tutti. Dici, a me, se tutti i giorni tu ti proponi di sopportare 5 minuti al giorno e poi non ti capita dover sopportare, si vede che la tua vita non è poi così insultata. No, non è così sotto almeno insulto. Questa settimana è andata così. Al limite ti do degli aggiornamenti per la prossima, però, perché possiamo comunque continuare questa cosa a tenerla aperta. Potremmo creare uno spazietto in tutte le puntate che, se ci arrivano dei messaggi o delle segnalazioni dai nostri ascoltatori, le citiamo e... Certo, e una poi... sorta di piccola rubrica, di rubrica, certo. In pillole su... Ma può poi seguirne, per esempio, ne conseguono alcune cose, per esempio... Potremmo scoprire dalle reazioni delle persone che è vero, non ci insultano così frequentemente. Quindi potremmo, come dire, avere un altro effetto. No? Oppure potremmo scoprire che 5 minuti al giorno non bastano. per esempio, e quindi insomma vedremo. E a te invece, vabbè, te fai questo di mestiere, non te lo chiedo neanche cosa ti è successo con i tuoi 5 no, minuti. No, io direi che 5 minuti a me non mi bastano, no. E io, come dire, ho bisogno di un paio d'ore minimo. Io ho bisogno di un paio d'ore, diciamo che il mio standard di sopportazione è 1 ora e 3 quarti. E dopo 1 ora e 3 quarti anch'io comincio a non ma fare. È una questione di allenamento? Sì. Come quello fisico? Sì, sì. È semplicemente una questione di allenamento. Guarda, quando si scopre che era così facile e non me ne rendevo conto. È una questione di allenamento. Una domanda invece sul tuo mestiere, finché aspettiamo che ritorni il regista, perché è scomparso. Ma voi psicologi, che appunto siete allenati a incassare anche la rabbia, perché un paziente, una persona che ha bisogno, magari in parte si presenta con tutta la sua rabbia, se la porta dietro e ve la dona, come si dice. Ma poi voi dove la sfogate la vostra? Ma dunque, la tua domanda indica che tu hai una concezione idraulica della psiche. Sì, allora, se non è così. No, non è, la psiche non è idraulica. Nel senso che, per esempio, a me specificamente nel mio mestiere mi capita. No, io non intendevo che tu accumuli idraulica, nel senso che tu accumuli la rabbia che ti viene scaricata e poi la devi scaricare a tua volta da qualche altra parte. Sì. Io intendo quella che accumuli tu per gli affari tuoi come essere umano. Sei un essere umano pure tu, succederà anche a te. Certo, di accumulare stati di crisi tuoi, che poi sono magari possono sfogarsi in rabbia. Certo, ma quando si sfogano in rabbia, però il problema è sempre quello: come superarla. O se non si può superare, come sfogarla. Quindi c'è una parte idraulica, che è quella dello sfogo, e c'è una parte non idraulica, che invece è quella di trovare soluzioni. Per esempio, una soluzione alla rabbia è cercare di utilizzare l'energia trasformandola in un'energia positiva. Per esempio, c'è una parola oggi che va di moda, che è indignazione. No, l'indignazione è precisamente la descrizione di una traduzione in termini positivi della rabbia. Cioè, questo è un meccanismo che, per esempio, se noi anche qui ci possiamo esercitare, no? Però anche l'indignazione ha un pericolo scivoloso, perché come tutte le cose quando se ne abusa, ovvero io vedo alcune persone intorno a me che sono diventate indignate croniche, per cui passano il loro tempo a segnalare o a parlare solo delle cose che le indignano. No, ma quello però è quando l'indignazione, okay, quando la traduzione della rabbia in indignazione non riesce, allora tu praticamente non ti basta indignarti, perché non riesci a fare nulla. È arrivata una telefonata. Oi, vai! Sì, no, è arrivata su un telefono che non può essere messo in diretta. Aia. Salutiamo intanto Max e gli ricordiamo, come ricordiamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, che per essere messi in diretta bisogna chiamare allo 051 34 64 58. Ma ci richiama Max? O io intanto gli ho noi? Mandato io intanto gli ho mandato il numero fisso se vuole, esatto, richiamare. Però è stata un dialogo. Anche se vuole essere richiamato da sì, noi, certo, è stata però una sua affermazione, a mio parere, talmente azzeccata, talmente sintetica, che la posso riportare con precisione anche adesso. Praticamente lui ha facciamo uno stacco musicale, come e preferite. Poi o rientriamo con Max in voce o rientriamo, allora con facciamo che... così che mandiamo lo stacco musicale. Dai. Intanto proviamo a ricontattarlo, altrimenti bravo, riporto io. Vai. Va bene, musica. crisi di mercoledì 26 marzo, torniamo in diretta alle 13:19 minuti e beh, grazie a una sapiente regia abbiamo Max al telefono. Sì, la sapiente regia che non si apre il microfono, diciamola tutta. Non fare la spia che nessuno se ne è accorto. Max, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti quelli che ascoltano. Ciao, allora, ciao. Dici tutto. No, dicevo, siccome io sto spesso, cioè mi succede in mezzo al traffico di avere un comportamento piuttosto aggressivo, perché mi viene così, perché Bologna è piena di imbranati intanto, io non sono bolognese, per cui succede a me di essere dalla parte di chi insulta, anche perché insomma sono ancora in forze, diciamo. Anche è cattivo, Max. Semplicemente da uno scusa, ho sbagliato, mi dispiace. Beh, lì cioè, proprio non sai che dire, hai chiuso i discorsi, capito? E quindi ti smontano così. Se ti trovi di fronte a una persona che è molto carica, si vede che insomma hai i casi suoi, è molto carica. Basta semplicemente metterla sulla possibilità, guarda, è probabile che abbia sbagliato, perdonami, scusami, non succederà più, non lo so, semplice, Max, non bisogna di farla troppo lunga, dimmi. Quindi quello che ti succede è che quando una persona ti dice ah scusa ho sbagliato, oppure reagisce con calma, ti disarma in un qualche modo. Esattamente. E ti calma anche quella rabbia che stavi sfogando, l'insulto. Sì, è molto efficace, sai, sembra banale, però è molto efficace. Francesco. Bene, mi sembra. Lo dico dalla parte di quelli che insultano. Sì, ma noi infatti vogliamo testimonianze da tutti i lati, va benissimo. No, okay, ma non okay. Solo, ma da quella parte la testimonianza è più attendibile. Perché è più attendibile da quella parte. Evidentemente è un esempio perfetto di quello che dicevamo. Funziona perfettamente. Anche dalla parte di chi ha bisogno di insultare, anche dalla parte di chi ha bisogno di scaricare. Di scaricare, di manifestare la sua forza, come dici certo. Tu. Ecco. Certo. Quindi va benissimo. Va bene, ti saluto e grazie per avermi fatto intervenire. Grazie a te. Ciao Max. E io adesso ti leggo un messaggio che ci è arrivato da Manuela e deve aver incontrato Max, chi per lui, perché dice l'episodio più carino della mia settimana è di esperimento. Attraversando il viale sulle strisce pedonali, io e una signora che camminava di fianco a me siamo state copiosamente insultate da un automobilista che riteneva lo intralciassimo. La reazione della signora è stata quella di sfogarsi con me cercando un eco alla sua rabbia. Ho sorriso e risposto: chissà cosa gli hanno fatto per farlo arrabbiare così, poveraccio. Miracolosamente, invece che una testata, la signora mi ha restituito il sorriso e abbiamo continuato a camminare scambiando quattro chiacchiere. Bene, tutti gli esempi sono tutti perfetti, anche questo è un altro esempio, mi sembra, di quello che dicevamo, no? Cioè c'è una persona che ti... addirittura qui c'è una persona che ti aiuta a gestire le cose in un certo modo. Cioè non c'è solo, non sei solo tu che puoi contare fino a 100 e cercare di sopportare quel po' che c'è da sopportare, ma ci può essere un altro che passa, ti vede in difficoltà e ti aiuta. Cioè ci può essere, ecco, questo è molto interessante, perché ci può essere una possibile catena umana. Ed è anche... se tu non ci riesci, esatto. Ci riesce quell'altro che passa e dice: no, poverino, aspetta un attimo, non reagire, perché chissà cosa gli è capitato a quello. E tu da sola non ce l'avresti fatto, magari, però c'è un altro che ti vede e ti aiuta. E non è detto e non è necessario che sia un conoscente, una persona che ti conosce, perché in questo caso appunto erano due strane. Molto meglio che sia uno che non ti conosce, perché uno che ti conosce magari pensa di non riuscire a combinare niente cercando di calmarti e non ci prova neanche. Ci vuole uno che non ti conosce. Esatto. Comunque, insomma, noi esortiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a continuare questo esperimento. Ma mi sembra un esperimento che sta riuscendo perché, perfettamente. Va proprio nello. Tu l'altra volta dicevi: se ognuno di noi utilizzasse, cioè mettesse in carico 5 minuti al giorno, Bologna, per dire la nostra realtà, sarebbe molto più calma e più tranquilla. Non c'è nessun dubbio. Questo era, diciamo, e allora noi volevamo testare con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici proprio questo effetto benefico che può portare. Devo dire che no, ma posso dire di più. Posso dire di più. Secondo me, se noi riuscissimo ad avere indizi forti, cioè da diverse testimonianze che la cosa funziona, bisognerebbe comunicarlo al sindaco. Ah, ecco, potremmo. Sì, bisogna comunicarlo al sindaco perché è un fenomeno di interesse cittadino e interessa il primo cittadino. Cioè il primo cittadino dovrebbe farsi promotore di una continuazione di questa cosa qui, perché poi la cosa va sostenuta. Direi proprio di sì. Comunque io continuo a esortarvi a scriverci o a mandarci i vostri SMS, i vostri WhatsApp, e arriva un messaggio. Lo facciamo dopo la pubblicità e tu lo leggi e basta? Cosa dici? Sì, dai. Ti piace? Sì, dai. Sì. Vai allora, leggi. 5 minuti di rabbia ingiustificata li colleziono forse in un mese. Inizio a pensare di vivere in una sorta di paradiso. Guido. Che si collega un po' a quello che dicevo io, che non ho avuto modo di sperimentare 5 minuti tutti i giorni, cioè non li ho avuti. Certo. Quindi anche Guido sta dicendo una cosa simile. Bene. E anche questo dobbiamo dire al sindaco, però. Sì, potremmo scoprire, per esempio, che Bologna è una città calmissima dove nessuno si insulta. Chissà, lo scopriremo. Che magari una volta al mese basta. No, non credo, non credo proprio. La risposta è dopo la pubblicità. Homem que diz do, não dá. Quem dá mesmo não diz. Homem que diz do, não tá. Quando fui já não quis. Homem que diz do, não é. Quem é mesmo é, não sou. Do, do, não tá. Ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha, traidor que vai atrás de mandinga de amor. Não vou, não vou, não vou, não vou. Eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Não vou, não vou, não vou, não vou, não. Não vou, não vou, não vou. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo. Rientriamo in diretta sui 103.1 Oltre la crisi alle 13.35 al via con la seconda parte. Dimmi, facci ridere un po' anche a noi, cara Francesca. Rido perché sorrido, ci arriva un messaggio da Max, quello di prima, che dice: beati voi che avete il privilegio di incazzarvi 5 minuti al mese. 5 minuti al mese? No, perché si riferiva al messaggio che ci è arrivato prima. E mi si è scaricato il telefono, Willy. Passamelo di qua. mi sta dando degli Achtung, Achtung, sto per morire. Va bene. Comunque, per consolare Max, parliamo anche di esperimento non arrivato a buon fine. E partiamo da una mia cara amica che, quando ho messo sulla mia pagina Facebook la sfida esperimento di questa settimana, mi ha risposto: scherzi? Al terzo minuto ho già sbranato lo stronzo. Questa è stata la risposta di Marina. Ma a proposito di esperimenti, secondo me non riusciti o non proprio riusciti o riusciti così così, so che Willy ha da raccontarci il suo esperimento di 5 minuti fa. Ma come si fa a non essere incavolati cronici che si ti prendono sempre in mezzo, anche in diretta, com'è possibile? Vai vai, racconta. L'esempio consiste in questo, è capitato poco fa addirittura, guarda. Io sono noto per essere molto, molto, ma eccessivamente freddoloso, ho sempre freddo. Sto bene semplicemente in luglio e in agosto, ma deve esserci una temperatura che sfiori i 40 gradi, sennò per me è sempre freddo. Quindi automaticamente, quando in un locale è freddo e la temperatura diventa in maniera artificiale più alta, chi ha alzato o tra virgolette manomesso i sistemi di controllo del riscaldamento, è anche giusto che il sospetto vada su William, chiaramente, visto questa sua visto questa sua propensione, no? Ma non è così, non è così, perché semplicemente il fatto di aver freddo, se uno è onesto, o lo dice oppure, se sa che non deve farlo, non lo fa. A quanto pare, però, queste affermazioni non sono bastate e quindi sono state fatte più volte illazioni. La prima volta è stata accettata con un sorriso, la seconda volta è stata accettata con un no, non sono stato io, anche perché, diciamo, non mi permetto, e poi se dico che non l'ho fatto, non sono stato io. Alla terza volta la risposta è stata, alzando la testa da quello che stavo facendo, con un no, e alla prossima mi difendo. E la reazione della persona che ti stava dicendo. Ma io non sono una persona fondamentalmente che senso, spaventa. No, voglio dire che comunque la persona ha continuato a essere, tra virgolette, verbalmente aggressivo, allora, acceso nei allora, tuoi confronti. Allora, questo voglio dire. No, un piccolissimo risultato c'è stato, perché prima di arrivare a far dire una cosa del genere a me, ce ne vuole. Vuol dire che il passo dopo io non ho mai sbraitato in vita mia e non ho mai litigato in vita mia. Il passo dopo io esco dalla porta, ma c'è un problema che non entro più. C'è quel problema lì. Quindi automaticamente non so se è un esperimento riuscito o non riuscito. Io sono così, difficilmente mi correggerai alla tenera età di 45 anni. Quindi questo mi ha portato a non litigare mai. Però, cioè, io aggiungerei un però. Questa, quando lui, non in questo caso, quando lui non risponde o risponde delicatamente, però a me viene la il dubbio che comunque accumuli. Ah, certo. Rabbia, nel non lo fa nel senso dell'esperimento che dicevamo noi. La mia psicologa Clementoni. Ma lo lasci scivolare, quindi non ti colpisce. No, in questo caso mi sembra che si accenda, magari represso, ma si accende. Sì. No, ma lui semplicemente ha una rabbia fredda. È un animale a sangue freddo e si arrabbia in modo freddo. Sono certo, la devo stare al sole, vedi? Capite? Cioè, anche nella rabbia è freddo. Per cui dice no. Cioè è arrabbiatissimo, ma il modo di esprimere, cioè la rabbia può essere calda o fredda. Certo. Lui c'è la rabbia fredda. Perché essendo un animale a sangue freddo. Ma io mi riferisco alle volte precedenti, quando invece ha risposto gentilmente dicendo no, non sono stato io, però ha caricato fino ad arrivare oggi alla rabbia fredda. Sì, però il problema che bello è essere psicanalizzati, quindi. No, il punto è che tu, cioè, come dire, bisogna vedere quello che ti dà più fastidio. E se, come dire, la prima volta che ti accusano, tu puoi anche dire, senza arrabbiarti, no, non sono stato io. E io ho fatto così. Ma se poi ti accusano continuamente, dopo cominci ad arrabbiarti se non sei stato tu, no? Però se la rabbia la esprimi in modo freddo, dirai no, è la prossima volta, e minacci che la prossima volta ti arrabbierai, però sul serio, o addirittura te ne andrai senza tornare più. No. Allora, secondo me qui siamo di fronte a un caso clinico. No, siamo di fronte a qualcuno che non riesce a sopportare e che in definitiva semplicemente sopporta finché pensa che l'accusa non sia un'accusa definitiva, ma quando capisce che è definitiva si arrabbia, ma si arrabbia a modo suo. Quindi allora, e soprattutto, da come dice, è convinto di non poter cambiare. Cioè, secondo me invece il punto è che si può cambiare a qualunque età. Cioè, il problema è, per esempio, rendersi conto se questo modo è efficace oppure no. Se non è efficace, uno può rendersi conto a un certo punto e allenarsi per reagire in un altro modo. Per esempio, così bello, che eh? Non è bello. Ci sono quelli che quando la temperatura si alza se la prendono con quelli che sono a sangue freddo e potrebbero aver alzato il riscaldamento, no? Cioè, certo. A sangue freddo. Una delle il nostro tirannosauro. È ubriaco. Una delle cose che giustificano l'arrabbiarsi è il fatto di scoprire che c'è nel bersaglio della tua rabbia una caratteristica negativa su cui c'è un pregiudizio, per esempio gli imbranati o per esempio quelli che hanno sempre freddo, così eccetera. Cioè, noi per certe caratteristiche nostre, ognuno di noi, si presta a diventare il capro espiatorio. Allora, quando ti arrabbi, tu solitamente ti arrabbi con quelli che si prestano ad essere capro espiatorio per te. Cioè ti arrabbi con quelli che hanno quella caratteristica che per te è la caratteristica per cui le cose negative succedono. Uh-huh. Quindi dobbiamo dire a Willy di smettere di fare il capro espiatorio? No, dobbiamo dire a tutti quelli che scoprono di avere una caratteristica per cui potrebbero essere capri espiatori. Per esempio, io sono un imbranato, lo confesso, non so guidare, in macchina combino dei casini. Sono sicuro che se passo vicino a Max e Max è già incazzato per conto suo, anche se non ho fatto niente, Max la prende con me. Non c'è dubbio. Ci può essere un caso o dei casi in cui ci sono persone particolarmente etichettate come capri espiatori? Sì. Per me sì. Sì, sì. E uno è quello che sta parlando in questo momento nello studio regia. Sì, sì, ci sono. Ciascuno di noi si presta a diventare un capro espiatorio per qualche caratteristica che viene fatto oggetto di un pregiudizio. Chi più, chi meno. Chi più di chi meno. Per esempio, io potrei essere un capro espiatorio se a un certo punto tutti pensano che la colpa è dei siciliani, io sono siciliano e potrei diventare un capro espiatorio per il fatto stesso che sono siciliano. Mm-hmm. È successo per gli ebrei, sì, successo certo. Per gli zingari e succede per tutti. Ora, può succedere per ciascuno di noi. È successo anche ai siciliani per certi versi. Sì, è successo ai siciliani, certamente, sono tutti mafiosi. Esatto. Non c'è dubbio. Allora, il punto è, qui per esempio, c'è un ostacolo a quell'esperimento che stiamo facendo. Mm. Uno degli ostacoli sono precisamente i pregiudizi. Per cui se tu, a te ti riuscirà meglio sopportare la rabbia di qualcuno se quel qualcuno non ha nessuna caratteristica di quelle che a te danno fastidio. Quindi ti riuscirà peggio. Possiamo complicare la sfida? Certo che possiamo complicarla. Per cui per esempio, chi ha una caratteristica di un certo tipo che può essere presa a prestito per indicare un capro espiatorio potrebbe riuscirci meglio. Mm-hmm. Quando deve sopportare 5 minuti, se si rende conto che quando uno viene preso come capro espiatorio, se il capro espiatorio dice hai ragione, colpa mia, proprio per quella ragione sono un imbranato, quell'altro si calma e quello che è diventato capro espiatorio svolge una funzione sociale importantissima. Cioè diventa uno che è una specie di bersaglio sociale che serve a sfogare la rabbia degli altri. Che bel ruolo! No, però è un ruolo che se, come dire, entro certi limiti, se uno, come dire, ci ride sopra, per esempio con un po' di ironia, può benissimo svolgere una funzione sociale importante. Per esempio, nella comicità, per esempio, c'è spesso questo aspetto. I comici, quando accentuano una caratteristica personale rendendola caricaturale, fanno ridere e la gente si sfoga proprio perché si sta ridendo di qualcosa a cui si attribuisce un valore di capro espiatorio. Uh-huh. E questo svolge una funzione sociale, si ride e si supera. Ho capito. E a proposito di capri espiatori, hai presente che prima dicevamo si era spento tutto qua. Dicevamo, può capitare che nei nostri 5 minuti di pazienza intervenga qualcuno che ci dà anche una mano. Era l'esempio che ci aveva raccontato Manuela. È sempre Manuela. E avevano detto, questa persona può essere un estraneo. Certo. E proprio lei ci specifica una cosa e dice, e secondo me c'entra anche col discorso dei capri espiatori, aggiungo una cosa, personalmente, ma credo valga un po' per tutti, mi riesce infinitamente più facile con gli estranei. L'esercizio è stato difficilissimo e non sempre efficace con le persone a cui voglio bene. In questi ultimi casi la prendo troppo sul personale. Certo, e qui, certo. Cioè tu, in definitiva, puoi andare oltre l'offesa che ti fa uno quando per il solo fatto che sei imbranato se la prende con te, se in definitiva pensi che quello non ce l'abbia con la tua imbranataggine perché non ti conosce, ma che ce l'abbia con l'imbranataggine in generale che tu in quel momento stai esprimendo. Certo, ed è per questo, e questa è la ragione per cui, per esempio, non so, se ci sono persone che apprezzano, che considerano generosità un comportamento sessuale facile se è di una donna estranea che se è della sorella. Sì, capisco. E forse quando sono le persone vicine a noi che ci insultano, poi si acuisce diciamo il dipanarsi del fatto di essere diventati capri espiatori. Certo, anche. Perché lì il problema è che perché tu dici, te ne rendi proprio conto. Non se lo può permettere perché mi conosce. Siccome mi conosce, non gli do il diritto di prendere quella caratteristica, di isolarla. Se uno mi conosce e mi insulta solo perché sono imbranato, se uno sa che sono il professor Campione, che sono, no, non mi può insultare solo perché sono imbranato, perché sennò mi offendo. Se invece un estraneo mi insulta perché sono imbranato, non mi offendo. Perché non ti conosce. Non mi conosce. Se non può sapere quanto meraviglioso sono invece. No, non può sapere le altre caratteristiche, per cui magari, non so, se è imbranato un filosofo, è una cosa carina che se è imbranato un qualunque altro, per un filosofo essere imbranato è carino. Se tu però non lo sai che quello è filosofo, quello è solo imbranato. Ma perché altre caratteristiche, diciamo tra virgolette positive, dovrebbero, come dire, tamponare quella cosiddetta, sempre tra virgolette, negativa? Cioè ognuna sta a sé. No, vabbè, se ognuna sta a sé, tu non stai considerando la persona nel suo complesso, ma la stai giudicando in base a una caratteristica isolata dalla persona nel suo complesso. Ma in quel caso lì, in quella situazione lì, in un'altra no. Sì, ma però se un estraneo te lo puoi permettere. Se uno che conosci, quello stesso dice, ma come? Metti insieme le due cose e non mi giudichi più come mi giudicavi prima. Però io posso dire, Campione è una persona meravigliosa sotto tanti aspetti, però è un gran imbranato. Certo, ma però quando dici che sono imbranato sapendo che sono meraviglioso, è difficilissimo che per essere imbranato diventi un capro espiatorio per te. Ah, è difficilissimo. Ho capito. Non puoi isolare, è l'isolamento di una caratteristica. Di solito i pregiudizi sono dovuti a questo. Perché, dice, tutte le volte che succede un delitto, dice, è stato un extracomunitario? Chi l'ha detto? Perché per il fatto di essere extracomunitario uno... No, per il fatto di essere extracomunitario è un po' disadattato, ma non è detto che quell'extracomunitario lì, per il fatto di essere... Perché quello potrebbe essere, certo, tante altre cose. Potrebbe essere un extracomunitario, uno che ha tre lauree, potrebbe essere uno buonissimo, potrebbe essere uno gentile. Il fatto che quando isoli la caratteristica extracomunitario puoi fare delle manipolazioni terrificanti. Cosa che succede? Nel bene e nel male, però anche nel bene, non solo nel male, anche nel bene. Cioè tu appunto te la prendi con quello lì, se quello lì capisci che tu te la sei preso con lui solo per quella caratteristica, dice vabbè, fallo pure. Capito. Andiamo in musica, poi andiamo pronto in conclusione. Pronto la musica, poi saluti alla conclusione. Sì. Eccola qui che arriva. With you. Concludiamo questa puntata. Allora, io vorrei concluderla esortando i nostri ascoltatori a continuare l'esperimento. Ok. Perché anche se magari nelle altre puntate parleremo d'altro, possiamo sempre aprire delle finestre, degli spazi per le vostre testimonianze. No, perché soprattutto perché noi vorremmo capire, perché da quello che viene fuori oggi, dalle risposte di oggi, viene fuori un dato contraddittorio. Sì. Da una parte viene fuori la prova che se tu sopporti, poi quello che si è incazzato con te si calma. Dall'altra, se è incazzato con te senza motivo, si calma. Dall'altra viene fuori il fatto che forse 5 minuti al giorno sono troppi. Cioè, nel senso che non è che ce ne sono tanti che si incazzano con te senza che tu abbia nessuno. Però dall'altro ancora c'è appunto Max, per esempio, che ci dice dal suo punto di vista: beati voi che non riuscite ad avere 5 minuti. Quindi evidentemente in parte dipende anche forse dal lavoro che si fa. Se Max è una persona che è molto sulla strada, certo, per noi abbiamo, ma persone sono diverse, abbiamo dati, esatto, contraddittori. Però vorremmo sapere, ci piacerebbe sapere come stanno le cose a Bologna. Cioè, se effettivamente è una città dove basta sopportare una volta al mese, o se bisogna sopportare una volta al giorno. Esatto, e quindi noi teniamo aperta questa sfida. Continuiamo a cercare di saperlo. Voi scriveteci sempre al 333 180 94 94 i vostri sms o messaggi WhatsApp, oppure potete intervenire con noi allo 051 34 64 58 come ha fatto appunto Max oggi, oppure durante la settimana, se non siete riusciti a parlarci, a scriverci, così ci potete scrivere a amicidirivivere@gmail.com. Perfetto. E noi leggeremo tutto e apriremo delle rubriche ad hoc dedicate a questa cosa, perché ci interessa moltissimo questa ricerca così empirica. Faremo dei contest a chi è il più incazzato, un premio speciale, non so, ne abbiamo di idee qui a profusione, per cui diamo appuntamento. Continuiamo l'analisi di Willy nel poi, esatto, c'è il paziente. No, poi possiamo fare il confronto tra Bologna e altre città, per esempio. L'analisi di Willy sta molto di caprone espiatorio. Sì, caprone espiatorio. Mi divertiva l'idea, dai, perché prima l'hai detto. Bene, bene, ridendo. A mercoledì prossimo, allora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.